Uomini con la licenza di sparare affogano nel latte acido. Processioni che aspettano il miracolo di un sangue gelido. Mani suicida di fresca carneficina stringono patti con il diavolo. Dottori in cerca di gloria tagliano le gambe all'uomo libero. Commendatori televisivi inondano silenzi che uccidono. In onda sfrecciano veloci, sotto le luci insultano. Avidi politici si mostrano, parlano in squallidi teatri. Prendono il popolo in ostaggio. Un cinema muto per sordi e ciechi, perché sono tutti appassiti questi fiori, perché si lasciano trattare tutti, non siamo tutti criminali. Forse sono io che ho scambiato il giorno per una notte permanente. Forse sono io il matto a credere ancora nella buona fede della povera gente. Angeli abbonati all'inferno fanno la fila, hanno una lunga coda per vedere gladiatori che corrono dietro una palla che sembra una preda. La nave dei pirati è stata assalita dai giornalisti dei telegiornali. Tutti parlano lo stesso linguaggio, tutti vedono gli stessi canali, fanno quadrare anche il cerchio. Tigri dietro a uno specchio si rincorrono su campi minati, ma non c'è più la luna nel pozzo. L'uomo è una bestia feroce, ma a volte la bestia a darci lezione di luce. Si crede il padrone di questa terra, ma poi sa fare solo la guerra, perché sono tutti appassiti questi fiori, perché si lasciano trattare tutti, non siamo tutti criminali. Forse sono io che ho scambiato il giorno per una notte permanente. Forse sono io il matto a credere ancora nella buona fede della povera gente. Cerco un altro investimento e provo a credere che non sia solo me, ma in questo mondo non siamo tutti uguali. I furbi hanno le mani più lunghe, spesso nel fango. I cancelli della casa del ladro sono protetti da scorte che hanno i denti lunghi. Sembra che difendano Gesù Cristo, ma difendono solo un pazzo. Le sentinelle dell'altra sponda che si affaccia sul lago dell'amarezza guadagnano ogni giorno di scevoli e si nutrono di tristezza. L'orologiaio che aveva cronometrato la fine del mondo è rimasto senza l'accetta, senza più il tempo. Fanno a pugni per conquistare il potere,